Ben ritrovate, ben ritrovati, Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa. Questo è giovedì 13 luglio del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Invece le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito della radio, sempre sull'home page, alla colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il nostro primo ospite di questa settimana è Antonio Bellia, direttore della nona edizione di Sicilia Ambiente Documentary Film Festival a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, in Sicilia, dal 18 al 23 luglio. Antonio, ben ritrovato. Buongiorno Federico, grazie. Buongiorno a tutti. Mi chiedevo prima che stesse succedendo, anche dati gli incendi che si stanno sviluppando in zona. Infatti, in questi giorni è una situazione abbastanza drammatica che si è sviluppata, perché con l'arrivo dello scirocco hanno, come spesso accade, dato fuoco a tutto e quindi sono stati problemi di evacuazione e così via. È un problema che appunto riguarda, paradossalmente riguarda così strettamente a contatto il nostro festival sull'ambiente, e questo incendio è uno dei problemi veramente più irrisolvibili che appaiono più irrisolvibili del nostro paese, insomma, in Italia, diciamo. Tra l'altro quest'anno c'è un picco incredibile di interventi, raddoppiato rispetto a qualche anno fa. Sì, è vero, tra l'altro c'è stato anche un picco veramente della frequenza dello scirocco, che qui quando tira è veramente terribile, basta pochissimo per far scoppiare l'incendio. E non si capisce bene se credere o non credere a questa favola che siano i pastori a dar fuoco. A me mi sembra forse che sia un po' riduttivo. Sì. No? C'è qualcos'altro forse che non va, non so bene. Antonio, allora, nona edizione, per chi ci ascolta e non lo conoscesse, intanto spieghiamo cos'è questo festival. Sì, è un festival che ormai appunto è da 9 edizioni, è un festival sullo sviluppo sostenibile, è un festival che è nato con la crisi di questo paese, mentre c'era la crisi, e da quella siamo partiti paradossalmente, proprio dall'idea che bisognava spingere verso questa riduzione dei consumi, è nato questo piccolo festival che negli anni in realtà è cresciuto tantissimo e insomma oggi è veramente un festival di cui andiamo orgogliosi e che riceviamo un sacco di opere e un sacco di partner che oggi credono fortemente a questo festival. E quindi insomma ci avviamo a questo inizio, da martedì iniziamo, tra l'altro in realtà da venerdì questo, dal 14 quest'anno facciamo anche un piccolo pre-festival con delle proiezioni sparse in giro dai paesi limitrofi e con anche una proiezione in acqua sullo splendido mare di San Vito Lo Capo con uno schermo galleggiante che serve più che altro come promozione all'inizio del festival, che sarà poi subito dopo. Antonio, stavi continuando. No, stavo dicendo che è un festival ricchissimo anche di opere, ci sono circa 60 opere, 4 sezioni in concorso, la sezione documentari che ha 9 opere provenienti da tutto il mondo, che vanno da opere inediti dall'anteprima mondiale a invece ad altre opere che hanno ricevuto premi un po' dappertutto. Abbiamo la sezione documentari, la sezione cortometraggi, la sezione animazione, la sezione nostra piccola sezione bike short sull'uso delle biciclette. Quindi un programma ricchissimo, devo dire. Poi abbiamo, grazie ai nostri partner, che sono in particolare la serata di apertura, facciamo una serata dedicata ai cambiamenti climatici, visto quello che sta succedendo anche con il Presidente degli Stati Uniti, che sta negando questa partecipazione alla firma di Parigi. Abbiamo voluto fare una serata dedicata proprio a questo tema e abbiamo trovato nell'Arci Ambiente un partner forte, e soprattutto abbiamo trovato nei Pet the Boys della musica che ci verranno a suonare al festival in apertura proprio su questo tema, per porre l'attenzione su questo tema. E invece a conclusione del festival grazie ad Amnesty International, che da quest'anno tra l'altro dedicherà un premio, darà un premio, consegnerà un premio al festival, premio diritti umani. Quest'anno loro portano la campagna Welcome, e chiuderemo il festival con un concerto di Sandro Joex, e quindi insomma veramente ricco. Senti, però Antonio, fammi tu qualche domanda. Sì, no, infatti volevo chiederti quali sono i temi, le tematiche più presenti e più importanti nei lavori di quest'anno. Guarda, i lavori sono in realtà molto vari, perché però la cosa interessante è che quest'anno, forse più di quasi degli altri anni, il rapporto tra le questioni ambientali e quelle dei diritti umani si mescolano fortemente nelle stesse opere, mentre negli altri anni ce n'erano solo alcune che erano fortemente legate, i due temi erano fortemente legati. Qui adesso c'è, in realtà la maggior parte delle opere hanno al loro interno sia i diritti umani sia la problematica ambientale, e quindi abbiamo veramente, che ne so, posso citare, io non amo mai citare troppo i film perché sono in concorso, però abbiamo le problematiche che riguardano per esempio l'uso di pesticidi, abbiamo un film sull'allevamento delle api, abbiamo una battaglia di inquinamento delle acque e delle falde acquifere, e quindi con conseguenza battaglia di lotta dei cittadini per cercare, perché i ragazzini si ammalano, la maggior parte dei ragazzini si ammalano per le sostanze che sono presenti nell'acqua. È un film questo sudamericano, Jardin de Plomo. Poi abbiamo, posso citare tanti in realtà ora, altre tematiche, poi abbiamo i cambiamenti climatici, come ti dicevo prima, sono fortemente presenti, così come anche in questo senso, invece in senso positivo, è la ricerca che c'è dello sviluppo di energie alternative. Insomma, un programma ricchissimo. Sì. Senti, ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sì, la programmazione abbiamo su www.festivalsicilianambiente.it, ovviamente trovate il programma, l'intero programma con tutta la programmazione. La programmazione si svolge tra l'altro in due sale, come gli anni precedenti. Abbiamo una sala principale e poi abbiamo la sala in spiaggia, che è una piccola sala che ospiterà soprattutto i cortometraggi e le animazioni. Per chiunque volesse appunto informazioni, www.festivalsicilianambiente.it. Le proiezioni partono tutti i giorni dalle 21 fino all'una di notte, e durante il giorno abbiamo tutte le sere abbiamo una presentazione di libri, abbiamo dibattiti, incontri e musica, tanta musica. Bene, per quest'anno. Antonio, io ti abbraccio, è sempre un piacere, speriamo a presto. Federico, grazie tanto dello spazio che ci date tutti gli anni, e spero di sentirti anch'io prestissimo. Ok. E infatti poi va bene, niente, gli sto dicendo una cosa, ma non è superfluo. Un abbraccio grande a tutti gli ascoltatori. Ciao Antonio. Ciao. Antonio Bellia, direttore della nona edizione di Sicilia Ambiente Documentary Film Festival a San Vito Lo Capo in Sicilia, in provincia di Trapani, dal 18 al 23 di luglio. Daniele Dezzi, curatore del Parco del Cinema Villa Lazzaroni, dal 12 luglio, quindi da ieri, prima giornata, fino addirittura il 3 settembre. Daniele, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie di avermi richiamato. Senti, si tratta della prima edizione? È la prima edizione, sì. Esisteva già un'arena negli anni passati in quel posto, ma l'associazione che si è presentata è appunto di ex lavoratori di quell'arena, che si sono messi in proprio, hanno fatto una domanda per il bando dell'estate romana, non hanno vinto nessun rimborso, ma si sono comunque assunti la responsabilità di partire, e quindi appunto ieri abbiamo aperto per il primo giorno. Senti, come avete organizzato, data questa situazione che ci ha illustrato? Guarda, sì, è stata tutta una rincorsa all'ultimo minuto, considera la conferma definitiva ci sarà arrivata 10 giorni fa appunto, come per tutto il resto dell'estate romana. e dopo 3 giorni già dovevamo mandare i comunicati stampa, avere il sito internet, tutto quanto preparato, però appunto quello è il mio mestiere, di conseguenza siamo partiti alla grande già ieri con Unlearning, che era un documentario difficilissimo su una famiglia alternativa, e poi sono venuti più di 100 persone. Bene, bene. Allora, ci racconti un po' la programmazione, come è sviluppata, su cosa avete puntato? Ah, guarda, la programmazione abbiamo deciso di farla veramente condivisa con i fan del network di Cinematic, quindi siamo andati a rivedere tutti quanti i post e messaggi dell'ultimo anno. Nell'ultimo mese abbiamo fatto diversi post promossi in cui chiedevamo al nostro network di consigliarci dei film, e anche sul sito internet appunto ci sono arrivate decine di richieste. Se andate su www.parcodelcinema.it trovate un form dove potete consigliare il vostro film. Quindi abbiamo fatto una corsa per prendere i diritti del primo mese fino al 31 luglio, sì. E man mano pubblichiamo sul sito e poi su Facebook, sempre facebook.com/parcodelcinema, i vari eventi delle prossime settimane. E quindi abbiamo notato dalla nostra rete che la richiesta era per una maggioranza di film italiani. E questo abbiamo fatto, appunto. Senti, i formati sono differenti, nel senso lungometraggi di finzione, corti, documentari? No, sono solo film, solo e film. Due documentari, okay. Esatto. Lo stesso autore di ieri, Unlearning, che dopo qualche anno appunto questa famiglia è cresciuta e ha continuato nella loro filosofia di vita moderna, e hanno realizzato un altro documentario che proietteremo poi i primi di agosto. Sì, sì, sì. Senti, e per i film ci fai, visto che si tratta di tutto un programma all'italiana, ci fai un po' una panoramica? Sì, allora, non all'italiana appunto, le prime 3 settimane abbiamo deciso di dare una panoramica, appunto iniziando il tema della famiglia, okay. Particolare, con Unlearning e poi con Capitan Fantastic di Matt Ross, con Viggo Mortensen, che è veramente la storia cinematografica del documentario che abbiamo proiettato ieri. Gran film, gran è film. Italiano, esatto, il documentario di ieri è italiano, di qualche anno fa, e praticamente è la storia di Viggo Mortensen, però questo non lo sapeva nessuno. E dopodiché abbiamo deciso di prendere alcuni film ai quali siamo molto legati, anche internazionali, come R di Spike Jonze, e fino al David di Donatello, la pazza gioia, e passando per The Dreamers di Bertolucci, uh-huh. O la versione integrale della Grande Bellezza, che è un classicone, è in un'arena per lo più frequentata da famiglie, era molto richiesto appunto, sì. Ma mettendo anche l'incursione, non so, perché chiamo Custurica sulla Via Lattea, quello con Monica Bellucci, che hanno visto pochissimi qui a Roma, e lo proiettiamo a fine mese, Piccoli crimini coniugali di Infascelli, passando per i successi dell'anno, Beata Ignoranza, Smetto quando voglio 2, e L'ora legale di Ficarra e Picone, che le famiglie ci richiedono appunto. A proposito di famiglie, volevo chiederti, è un pubblico trasversale? Assolutamente sì, veramente ogni età, abbiamo visto anche ieri, dalle coppiette di adolescenti alle persone anziane, alle famiglie con i bambini che sono venuti appunto. Ok. In questo, sì, sì. L'Alberone è un quartiere molto popolare, quindi appunto abbiamo dovuto fare una programmazione per accontentare un po' tutti. Abbiamo messo anche John Wick 2, che era richiesto appunto. Senti, stai continuando, ti ho interrotto rispetto a questa panoramica che stai facendo. Esatto, bene o male ci siamo, perché okay. Mi manca Fiore di Claudio Giovanetti, non vi ho detto, che proiettiamo mercoledì 26. E poi La verità vi spiego sull'amore di Max Croci con Ambrangiolini e Carolina Crescentini, e Non è un paese per giovani di Veronesi. Ci abbiamo deciso anche di prendere il cinema un po' più giovane e visto poco dell'ultimo anno appunto. Senti, si tratta di una proiezione a sera, qual è l'orario, sono previsti anche momenti di incontro, dici un po' tutto. Allora, sì, sono previsti momenti di incontro. Per ora abbiamo sabato, presentiamo il nostro ultimo, che è un'opera prima di Ludovico Di Martino, con Guglielmo Caligola Poggi e altri nomi dello scenario romano che sono usciti nell'ultimo anno, passando per Pietro De Silvia, Giobbe Covatta, sì. E saranno presenti appunto il regista Ludovico Di Martino e sicuramente il buon Poggi, e poi gli altri ci devono ancora confermare. Comunque sì, cerchiamo di fare degli incontri con quanti riusciamo a contattare, così all'ultimo minuto ovviamente. Sì, sì, sì, sì. Senti, ci dai anche i riferimenti web per la programmazione? Sì, trovate la programmazione aggiornata costantemente sul sito ufficiale che è www.parcodelcinema.it e su Facebook che è facebook.com/parcodelcinema. Benissimo. Allora Daniele, un abbraccio e risentirci presto. Grazie mille Federico, a presto. Ciao, ciao, buona giornata. Daniele Dezzi, curatore della prima edizione del Parco del Cinema a Villa Lazzaroni da ieri 12 luglio fino al 3 settembre. E ritroviamo Andrea Gadaleta Caldarola, regista del documentario Mare Nostro. Andrea, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, grazie dello spazio, un saluto insomma a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Visionari Radio Onda Rossa. Siamo arrivati un po' in ritardo perché il tuo documentario è stato programmato anche a Roma, al Festival Trastevere Rione del Cinema. E immagino anche con buoni risultati di pubblico. Sì, in realtà a Roma ci sono state due proiezioni già, e una è stata al Festival delle Terre, sì. Che è organizzato da Crocevia, un festival insomma storico, certo, romano, certo, prima certo. Si faceva al Cinema Aquila, quest'anno l'hanno fatto al Cinema Trevi, sì, al Festival organizzato dai ragazzi del Piccolo Cinema America, questo del Rione Trastevere, che insomma è un evento molto interessante perché è veramente un evento unico di pubblico, insomma porta veramente tanta gente in piazza e ha fatto anche una bella selezione di, sì, di tra l'altro ecco il mercoledì è dedicato proprio al documentario. Esatto, esatto, io sono stato ospite il primo dei mercoledì, ma insomma ci sono anche altri bei documentari in selezione. Sì. Andrea, allora raccontaci Mare Nostro, di cosa parla? Allora il film insomma dire di cosa parla è un po' complicato, è un film che ho realizzato, girato nel 2015 e poi è stato presentato la prima volta l'aprile del 2016, racconta diciamo una storia locale di Mare che ho girato a Molfetta, che è poi la città dove sono nato. È una storia che volevo raccontare da tanti anni e che insomma sono riuscito a farlo solo ora. È ambientato appunto in una Molfetta e attorno a tutto quello che succede attorno al porto di Molfetta, attraverso lo sguardo e le parole di pescatori, quindi di lavoratori del mare, quindi una storia locale come ti dicevo, ma in qualche modo anche una storia abbastanza universale perché insomma riguarda tutte le città e le comunità che hanno un rapporto appunto col mare come principale risorsa. Infatti la città è nata attorno al porto e chiaramente questo il rapporto col mare e la pesca nel Mediterraneo insomma sta attraversando un periodo di grossa crisi, sia legato all'impoverimento del mare sia insomma legato ad altri fattori. In realtà il film non è un film d'inchiesta o un film di denuncia o un documentario tematico, anche se in qualche modo è attraversato da due questioni di attualità anche abbastanza importanti che a distanza di 70 anni si sono reintrecciate, che poi sono quella la questione degli ordigni bellici soprattutto chimici che ci sono diciamo mai bonificati, che ci sono nell'Adriatico soprattutto attorno alle coste di Molfetta, ma così come a Pesaro, a Napoli, a Manfredonia, insomma in Ischia, in tante città d'Italia. E poi la questione delle grandi opere, di tutte queste enormi opere mai finite anche queste, tra cui insomma questo megaporto commerciale di Molfetta, un lavoro iniziato nel 2008 e poi mai finito di costruire perché poi sequestrato, perché insomma i lavori si sono bloccati proprio per la presenza di questi ordigni bellici, e in qualche modo queste due storie attraversano i racconti dei protagonisti che sono pescatori, anche se insomma non sono sviscerati come avrebbe fatto un lavoro d'inchiesta, sono fondamentali perché poi in qualche modo determinano, condizionano e attorno a queste poi si sviluppano diciamo le storie dei protagonisti. Insomma non dico altro tanto sì, su queste cose, sì, insomma sì. Sono fatti storici abbastanza noti anche nella cronaca diciamo degli ultimi anni, e il mio intento diciamo non era tanto di raccontare queste storie quanto di inserirle all'interno di un contesto che permettesse di raccontare poi queste grandi storie, queste storie di cronaca attraverso delle memorie private, sì. di persone appunto che passano sostanzialmente, hanno passato la maggior parte della propria vita in mare e non a terra. E due dei protagonisti in realtà sono morti perché insomma erano molto anziani poco dopo le riprese del film, quindi diciamo c'è un racconto di un pescatore che aveva 103 anni, ex pescatore chiaramente che aveva 103 anni, di un altro molto anziano, cioè più anziani pescatori che c'erano a Molfetta, e in qualche modo attraverso i loro racconti emerge un racconto non semplicistico, diciamo, della realtà del rapporto col mare di una comunità e poi di queste persone. E chiaramente non sono probabilmente, insomma, per avere una recensione ha più senso insomma cercarsela sul web, ce ne sono alcune anche molto interessanti come quelle su Cinelapsus o Cineuropa, basta cercare insomma Cinelapsus è il nome del film, che ho scoperto anch'io tante cose su un film che non conoscevo, è sempre interessante leggere insomma cosa ci vede qualcun altro nei film. Insomma, l'intento mio era quello di non semplificare eccessivamente la realtà, di permettere di dare diciamo un racconto di queste storie, della grande storia, attraverso delle memorie private diciamo delle persone. E insomma non si tratta, come dicevo, tanto di un film d'inchiesta o tematico, anche se c'è chiaramente questa tematica di sfondo ambientale. In qualche modo l'intento era di problematizzare la realtà, in qualche modo metterla in discussione attraverso appunto lo sguardo dei protagonisti. Senti, com'era nata l'idea, la spinta a realizzare questo lavoro e poi come hai deciso di costruirlo e strutturarlo? L'idea era lo volevo fare insomma da tanti anni e non c'ero mai riuscito, ho trovato il tempo e qualche piccolo fondo per farlo, quindi ci ho messo un anno di riprese e qualche mese di montaggio. E insomma l'idea nasce perché insomma c'è un rapporto molto personale con il porto, legato chiaramente alla mia infanzia e alla mia storia, e ma insomma era anche importante raccontarlo secondo me in un certo modo, in una maniera non scandalistica, come spesso si affronta la questione degli ordini bellici o le questioni di attualità, ma insomma dargli una visione comunque storica o comunque più complessa. L'ho fatto raccogliendo tante testimonianze, stando molto sulle barche, maggior parte del film è girato sulle pescherecci, lampare, pesca a strascico, barchetti che fanno insomma la tradizionale pesca con la lenza, dei polipi, e quindi diciamo attraverso queste testimonianze. Sì. E tutto quello che succede attorno a un luogo, che poi è un luogo molto complesso e significativo, che poi è un porto, perché poi attorno al porto insomma ci sono tante questioni, ci sono tradizioni millenarie, ci sono i mercati, le aste notturne, insomma in quel posto un po' emerge il rapporto un rapporto significativo diciamo dell'uomo con le proprie risorse, con la natura e con l'ambiente. Ecco, proprio rispetto ai due temi centrali, quello della pesca e quindi del lavoro e quello dell'ambiente, quali sono le prospettive? Le prospettive, diciamo, chiaramente tutto l'Adriatico ha una situazione della pesca che è abbastanza in crisi, perché chiaramente c'è molto meno pesce, anche dovuto sia allo sfruttamento diciamo intensivo che c'è stato negli ultimi anni, sia dovuto all'inquinamento. In più diciamo c'è questa questione degli ordini bellici che riguarda molto la città di Molfetta ma anche altre città, per cui c'è questa questione che in realtà i pescatori da decenni, da dopo la seconda guerra mondiale, insomma spesso capita che fra le reti accidentalmente si trovino degli ordigni. Questi ordigni sono spesso chimici, vicino a Molfetta soprattutto c'è questo problema insomma che è molto conosciuto ma mai risolto, perché c'è una grandissima quantità di prite, che questo agente chimico molto pericoloso di cui l'Italia è stata una delle principali produttori al mondo durante il fascismo, che gli americani insomma pensarono bene di portare in Italia quando decisero di diciamo liberare, comunque invadere l'Italia durante il fascismo, risalirono proprio da Bari, si portarono questo enorme carico di prite che fu bombardato dai nazisti. Quindi ci fu questo evento il 2 dicembre del 43, che fu il più grande disastro, ovviamente l'unico disastro chimico della seconda guerra mondiale, per cui gran parte di questo, di questi ordigni vennero, sono stati poi recuperati e riscaricati in mare. E spesso capita che i pescatori, insomma, entrino in contatto con questi ordigni, ci sono, insomma, state varie morti e comunque ci sono tantissimi incidenti ancora oggi, e difficilmente questa cosa viene denunciata, perché in qualche modo è sia pericoloso tenersi gli ordigni a bordo, sia ci sia il sequestro della barca, del pescato, insomma ci sono tutta una serie di questioni burocratiche, insomma anche molto pericolose, che fanno sì che generalmente i pescatori li buttino semplicemente in mare. Questo avviene da circa 70 anni comunemente, quindi c'è questo problema molto particolare che in qualche modo poi è riemerso, perché hanno pensato bene di costruire la terza grande opera marittima per dimensione e costi d'Italia proprio a Molfetta, su un deposito di ordigni chimici, un lavoro chiaramente che poi si è rivelato una mega truffa, perché i lavori poi sono stati bloccati, insomma è stato tutto sequestrato, proprio perché erano iniziati prima della fine della bonifica, bonifica che poi in realtà non è mai stata completata, proprio perché è molto difficile, perché questi ordigni sono in qualche modo consumati, si sono rotti nel tempo, quindi è molto difficile recuperarli. Quest'opera è stata sequestrata, doveva costare 40 milioni di euro, è costata 170 milioni di euro e poi non è stata mai finita. Quindi in qualche modo questi eventi che riguardano la seconda guerra mondiale si sono, come dire, riproposti e tornati di nuovo d'attualità, proprio perché insomma quest'opera e questa mega opera non è mai stata finita, proprio per questi ordigni. Questo, diciamo, riguarda un po' sono temi specifici legati alla pesca a Molfetta, insomma una cosa anche abbastanza nota, ma che non è mai stata affrontata né mai risolta del tutto. Ancora oggi ci sono incidenti di bagnanti, insomma capita ogni tanto che si entra in contatto con queste sostanze, e questo chiaramente è un problema legato alla pesca, non tanto per la contaminazione, perché insomma la contaminazione del pesce è più legata ai metalli pesanti eccetera, quanto per pescatori, insomma, che possono entrare in contatto con queste sostanze. E più in generale la pesca è chiaramente un settore in crisi, che ha sempre meno, prima Molfetta c'erano 300-400 barchi, adesso i pescherecci ce ne sono più o meno 30, e quindi diciamo è un settore chiaramente in crisi, che però sopravvive, insomma ha una tradizione millenaria di tecniche di pesca di generazioni, di cooperative che insomma continuano a lavorare. Quindi per me era molto interessante raccontare poi queste storie, riconnettendo, diciamo, le memorie private a fatti di cronaca, a fatti storici, dandone uno sguardo, diciamo, non banale, non semplicistico, a partire proprio dai pescatori. Insomma, questo è stato il mio intento. Questo. Senti Andrea, ci lasci riferimenti web per saperne di più, anche magari su un calendario di proiezioni? A parte cinematagliano.info, che è un sito che raccoglie un po' tutti i documentari italiani, dandone dati, insomma, di produzione eccetera, c'è una pagina Facebook del documentario di Mare Nostra, che è una sempre aggiornata, e quindi ci sono le prossime appuntamenti. Adesso ci sarà una produzione Ariano International Film Festival, un altro piccolo festival nuovo, che sono il Festival Naturale, e poi ci sarà a novembre a Marsiglia, c'è un grosso evento che si chiama il Primed, che è un festival legato al Mediterraneo, alla storia del Mediterraneo, ci sarà anche Mare Nostro appunto a novembre. Benissimo. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Andrea Gadaleta Caldarola, regista del documentario Mare Nostro. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e tutte le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi le trovate sulla, è sempre sulla sul sito internet della radio, sull'home page, la voce, colonna centrale, alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Davide Crudetti, regista del documentario Mingong. Davide, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora, Mingong, raccontaci un po' di cosa si parla. Mingong è un viaggio dalla Cina di oggi, dalla grande megalopoli di Guangzhou, 13 milioni di abitanti e lavoro, lavoro, lavoro, fabbriche e industrie. E diciamo l'economia che le cui notizie arrivano anche a noi. È un viaggio a ritroso fino ad un villaggio dell'entroterra che si chiama Dimen, che è uno di quei villaggi da dove arriva la manodopera che poi lavora nelle città come Guangzhou. Senti, come è nato? Stavi continuando, scusami. Questo è praticamente la storia di persone che lasciano il proprio villaggio di origine, lasciando nel proprio villaggio i loro genitori e i loro figli, e si trasferiscono in città a lavorare. Passano da queste ambientazioni magnifiche, quasi fiabesche, quindi vegetazione incredibile, rigogliosissima, un fiume che attraversa il villaggio, case di legno, e un mondo veramente ai confini del tempo, per andare a lavorare invece in queste grandi città dove vivono in case in 5 o 6 persone in 20 metri quadrati e conducono una vita atta veramente solo al lavoro, lavoro come mezzo per poi tornare quando hanno più o meno 50-60 anni al loro villaggio di origine e godersi la pensione, tra virgolette. Senti, come ha avuto origine questo documentario? Il film nasce da un'idea mia e di Davide Luppi, che è un mio carissimo amico, che è il co-soggettista del film, che vive in Cina da 6 o 7 anni ormai. Lui avrebbe passato in questo villaggio 7 mesi per altre dinamiche lavorative sue, e un giorno, durante una telefonata, mi ha iniziato a raccontare quello che era questo villaggio. E parlandone c'erano un sacco di temi, parlando delle storie di quel villaggio, c'erano un sacco di temi a me molto cari, come appunto il lavoro come mezzo, come le migrazioni, come il fatto di quel concetto di che cos'è casa tua e che cosa vuol dire lasciare casa tua. Erano appunto dei temi a me cari, e l'unico inconveniente è che stavano dall'altra parte del mondo, quindi abbiamo deciso di partire, abbiamo cercato di risolvere questo piccolo inconveniente e ci siamo riusciti. Senti, quante persone avete incontrato in questo viaggio cinematografico e che racconti hai vissuto? Parliamo di 6 personaggi. 6 persone, 2 sono a Canton, vivono in quelle periferie, siamo stati a casa loro e poi da lì siamo tornati indietro, abbiamo incontrato altre 4 persone, tutte di generazioni diverse, quindi da Mengxi che ha 70 anni e ha 5 figli tutti a lavorare in città, fino a Yu Cheng che è il più giovane, che ha 20 anni e fa avanti e indietro dalla città al villaggio. La storia è più o meno la stessa per tutte le famiglie di Dimen. Diciamo che è un mosaico di facce che poi raccontano tutti la stessa dinamica, che è quella appunto di questa vita divisa in 2, no? Da una parte la città, quella che loro chiamano il mondo, loro quando parlano di Guangzhou dicono l'andare a Guangzhou è l'unico modo che abbiamo per vedere il mondo, quello è tutto il mondo che vediamo oltre a Dine. E poi l'altra parte nel villaggio, quindi l'infanzia e la vecchiaia poi fondamentalmente. Senti, è un sogno che ha un prezzo, come lo vivono? È un sogno che ha un prezzo, quello che ho visto è che lo vivono con abbastanza leggerezza, nel senso che è una dinamica che loro accettano, è una dinamica che è uguale per tutti, è una dinamica che a cui loro di fatto sono abituati. Sanno che è un prezzo da pagare, ma che è un prezzo che li ricompenserà, perché poi gli ultimi 20 anni di vita saranno degli anni molto belli, perché si ricongiungeranno con la loro famiglia. È un prezzo da pagare perché i loro figli potranno studiare in città e quindi potranno in qualche modo calare, no? Tra virgolette, qualche gradino della società cinese. È un prezzo da pagare perché per stare dietro alla Cina, che di fatto è quello che loro vogliono. Uno dei titoli del film provvisori era Lasciare indietro, in cinese più giù, e era lasciare indietro il proprio villaggio, i propri figli, i propri genitori, ma anche essere lasciati indietro, no? La Cina va da una parte, Tiemen è ferma da un'altra parte, gli abitanti di Tiemen vogliono stare dietro allo sviluppo del capitalismo cinese, poi in fondo. Ecco, proprio rispetto a questo volevo chiederti, oltre alla questione della massa forza lavoro, qual è il rapporto tra le grandi campagne e le grandi città in Cina? Il rapporto è molto problematico, perché in Cina c'è una cosa che si chiama Wukou, che è un permesso che è praticamente la nostra residenza. Sì. Tu hai accesso al welfare sanitario e insomma di qualunque tipo solo nel paese dove sei residente. Sì. E cambiare residenza è molto difficile. Questo vuol dire che tutti i bambini studiano a Tiemen, studiano nei villaggi, perché non hanno accesso alle scuole nelle città, quindi a trasferirsi sono solo i loro genitori, che invece mettono in gioco anche la loro salute per pur di stare in città. È problematico perché tantissimi, i numeri dei migranti sono numeri incredibili, siamo quasi 300 milioni, e le campagne si stanno svuotando, le città non sono così pronte ad accoglierli tutti, o quantomeno è un processo talmente rapido e talmente, appunto, ha un'evoluzione talmente veloce che è difficilmente controllabile. Senti, il tuo lavoro che percorso sta facendo? Il mio lavoro è stato presentato il 30 settembre dell'anno scorso al Festival Internazionale a Ferrara, e adesso è stato in più di 15 festival ricevendo, diciamo, abbastanza premi. E ieri c'è stata una proiezione a Bologna, ce ne sarà un'altra nelle Marche tra due settimane, un'altra in Puglia a fine luglio. Insomma, continuiamo a girare. In più, dall'autunno ci saranno altre 10 date tra cinema e università che ci hanno chiesto il film, e quindi diciamo che Mingon continuerà ad essere visto fino almeno a gennaio 2018, e di questo siamo molto contenti. Bene, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, c'è una pagina Facebook di Mingong, che è l'unico, diciamo, riferimento più concreto, e poi c'è una pagina di Zalab, che è la casa che è la sezione di produzione e distribuzione che distribuisce il film, dove c'è una pagina per Mingong, zalab.org, e poi c'è una pagina di Cuori Rotta, che è il progetto, il contenitore, diciamo, dove è nato il film ormai 2 anni fa, anche quella cuorirotta.org, in cui c'è proprio l'inizio del percorso del film, l'idea di viaggio iniziale da cui poi è nato tutto. Benissimo. Allora, Davide, un abbraccio e speriamo a presto. Va bene, grazie molto. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Davide Crudetti, regista del documentario Mingong. In collegamento con Alessandro Chetta, co-regista del documentario Mirabiles, I custodi del mito, documentario al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto tratta proprio da questo lavoro. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti voi. Allora, ho avuto modo di vedere il tuo lavoro su Italian Doc, mi ha molto impressionato, e allora ho preso contatti con te per parlarne, insomma, per farlo conoscere. E raccontiamo di cosa si parla, Alessandro? Sì, allora, partiamo dal titolo Mirabiles, avocazione latina che sta per ammirevoli. Questi ammirevoli sono i volontari che custodiscono siti archeologici di una certa importanza ai Campi Flegrei. I Campi Flegrei, magari gli spettatori l'avranno sentito per nominare, per il super vulcano che lì esiste, e sono stati anche in passato, nell'epoca classica, una sorta di Saint-Tropez dell'epoca classica, diciamo, ci andavano gli imperatori, ci andavano tutti i patrizi romani, quindi ci sono enormi ville, cisterne dell'acqua, eccetera. E oggi quindi ci sono i resti di cotanta bellezza, e purtroppo lo Stato italiano non riesce a garantire, diciamo così, l'entrata attraverso un box office, attraverso un botteghino, e affida le chiavi di questi luoghi ai cosiddetti assuntori di custodia, cioè questi volontari, che spesso sono anche persone un po' in là con gli anni, sono pensionati, non tutti ma gran parte di loro, che con enorme dedizione mostrano a chi vuole questi tesori. Senti, come hai conosciuto questa storia e come poi hai deciso di filmarla? Beh, conosciuta perché piacciono molto i Campi Flegrei, chi minimo frequenta quei posti e ama i siti archeologici è ben a conoscenza di queste vicende, anche perché parliamo di assuntori di custodia che si tramandano queste chiavi, diciamo addirittura dai nonni in alcuni casi. E niente, quindi a me è Marco Perillo, che è il co-regista del documentario, è venuto in mente di intervistarli, quindi un lavoro giornalistico sicuramente e anche sentimentale, perché poi ci si affeziona, sono talmente bravi nel divulgare poi la storia, la grande storia che è passata in quei luoghi, che da un lato chiaramente fa enormemente piacere che ci siano persone così piacevoli, dall'altro ovviamente magari si può un po' storcere il naso sul fatto che il ministero non riesca a garantire l'apertura di siti del genere. Sembra, cioè, ha tutto l'aspetto di una storia tipicamente italiana, una storia che ha dei tratti abbastanza incredibili. Rispetto anche a chi ci ascolta, diciamo quali sono i siti in particolare che hai preso in esame? In particolare, allora, il più importante si chiama Piscina Mirabili. Piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna d'acqua dell'antichità, la più grande infatti se la si visita, e sembra una cattedrale sotterranea, perché poi i romani quando facevano le cose facevano anche esteticamente gradevoli, e quindi questa enorme cisterna d'acqua ha tutta insomma una serie di archi che sembrano le navate di una basilica, ed è la più grande dell'antichità perché riforniva la flotta di Augusto, flotta attraverso la quale Augusto poi conquistò l'impero, eccetera. E uno. Poi c'è un'altra che si chiama Cisterna della Dragonara, che era un'altra enorme contenitore d'acqua, questa però riforniva un privato, cioè la villa di Lucullo. Quando voi sentite pranzi luculliani, ci si riferisce ai pranzi che questo Lucullo, che era un generale romano e anche un grande cuoco, teneva in questa enorme villa sul promontorio di Miseno. E per rifornirsi d'acqua aveva questa cisterna personale che è enorme e che ancora ora è visitabile ed è piena d'acqua, quindi fa anche un po' l'effetto di Gomera. Poi c'è un teatro romano molto bello che ha un'apertura addirittura dal mare, ci si può immaginare che ci si arrivasse in barca, andare in teatro in barca non è male. E poi c'è la grotta della Sibilla, che questa è di un privato e da non confondere con l'anza della Sibilla che magari tutti conoscono, ma questo è bellissimo, insomma si trova proprio sul lago d'Averno, cioè il lago dove Virgilio pose la porta degli imperi, cioè da lì si scendeva all'Ade. Sì. Senti Alessandro, che ne è al momento e quali sono le prospettive rispetto insomma a questi siti archeologici e alla loro fruizione pubblica? Allora, le prospettive, come al solito, se si interrogano i politici, sono buone, nel senso che lo stesso ministro Franceschini pare sia intenzionato a fare il parco archeologico dei Campi Flegrei. Quindi quando diventa parco archeologico significa che avrà anche un direttore, adesso invece ci sono solo i sovrintendenti, avrà un direttore che immagino si curerà poi di dotare i vari siti di un marketing anche pubblicitario adeguato. E chissà se avrà ancora bisogno degli assuntori di custodia. Noi segretamente ci auguriamo di sì, però chiaramente le cose possono cambiare. Mm-hmm. Questo chiaramente è la prospettiva. Attualmente invece si reperiscono i numeri di telefono su internet, si chiama e i volontari saranno a vostra disposizione per visitare queste meraviglie. Anche perché hanno una bella preparazione culturale per illustrare le bellezze. Assolutamente sì, e se non l'avevano sicuramente negli anni se l'hanno fatta. Certo. Senti Alessandro, il vostro documentario come sta girando? Allora, per ora Mirabiles, Custodi del Mito sta girando abbastanza nei festival, sì. Quindi non è ancora online perché spesso insomma i festival chiedono che non sia divulgato, eccetera. L'ultima proiezione è stata all'Ischia Film Festival e devo dire ogni volta anche le domande, le curiosità che suscita, le stesse che mi stai facendo tu, come dire, creano un dibattito vivace alla fine della proiezione, magari molto più, se posso dirlo, di altri documentari, forse anche fatti meglio dal punto di vista così stilistico, estetico, però questo certo. Colpisce proprio per l'insieme di cronaca, storia e chiaramente di umanità che c'è dentro. Sì. Senti, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Riferimenti internet, beh sì, ci sono usciti degli articoli, quindi attraverso i motori di ricerca si può cercare, mettere proprio il nome Mirabiles e il nome degli autori. Cercando su Google in questo modo escono anche degli articoli in cui magari noi spieghiamo, o anche dei video su YouTube in cui veniamo intervistati ed spieghiamo meglio tutto ciò che è questo progetto. Però per un calendario di proiezioni o aggiornamenti non c'è altro? Purtroppo per ora no, perché poi questi sono prodotti che all'inizio nascono soprattutto per i festival, difficile che ci sia una veicolazione televisiva o di questo tipo. Ovviamente il loro destino, il loro fortunato destino si spera, e attraverso internet, i canali web, quando insomma saremo sicuri che ormai si è esaurita la pena festivaliera, li metteremo a disposizione di tutti sul web. Benissimo. Allora Alessandro, speriamo di risentirci presto, un abbraccio. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, ciao. Alessandro Chetta, co-regista del documentario Mirabiles, i custodi del mito. Claudio Casale, co-regista del documentario Piccolo Mondo Cane. Claudio, ben ritrovato, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e anche ai registi e agli autori, insomma, che sono appena intervenuti. Allora Claudio, un lavoro che ha avuto qualche difficoltà, se non sbaglio, vero? Sì, diciamo, è stato innanzitutto un lavoro che Piccolo Mondo Cane narra dell'autogestione che hanno fatto gli ex lavoratori del canile Muratella, che una volta licenziati hanno continuato a lavorare gratuitamente senza uno stipendio, senza più il supporto delle istituzioni, perciò già la loro storia era di per sé complicata. Certo. Noi ci siamo ritrovati nel filmarla prima con la complicazione, diciamo, nel trovare questa amministrazione che da lì a pochi giorni insomma li avrebbe purtroppo sgomberati, più dopo tutte quante le nostre complicazioni nel riuscire a proiettarlo, perciò quando diciamo Piccolo Mondo Cane e complicazioni, diciamo tantissimi fattori diversi. Senti, intorno ai canili ci sono state parecchie vertenze che spesso abbiamo seguito su queste frequenze. E qual è la politica cittadina rispetto a questa questione? Beh, quello che io ho potuto vedere come documentarista, perché va detto che io appunto della vertenza prima di fare Piccolo Mondo Cane non ne sapevo tantissimo. Sì. Quello che ho potuto documentare con Piccolo Mondo Cane è stata, diciamo, un'amministrazione che si è trovata davanti questi 70 lavoratori, parliamo di lavoratori che hanno lavorato al canile di Muratella per 15 anni, creando delle vere e proprie metodologie anche nella gestione del randagismo, nella gestione dei cani, nei processi di adozione, che chiedevano appunto l'internalizzazione. Chiedevano l'internalizzazione dopo aver lavorato per 15 anni, insomma, tramite le varie insomma assegnazioni dirette, eccetera. E davanti a questo scenario, perciò questo scenario di 70 lavoratori che ogni giorno, anche se sono stati licenziati, decidono senza stipendio di andare a lavorare, comunque la vita in canile non è una vita facile, orari presto, dalle 6 di mattina fino a tardi, gratuitamente per l'amore verso il proprio lavoro, quella che è stata, diciamo, la gestione dell'amministrazione che noi abbiamo potuto documentare con Piccolo Mondo Cane è stato, diciamo, nel nome della legalità, fare questo bando di assegnazione verso una realtà che non era romana, non era del Lazio, che è subentrata alla gestione del canile con un organico molto minore, con fondi ovviamente minori, ma anche un organico proprio di persone, e ovviamente si può facilmente tracciare una linea tra le minori risorse disponibili e anche un output peggiore nella gestione dei cani in generale. Sì, sì, sì. Senti, come è nato questo documentario, come ci avete lavorato sopra? In pratica è nato poco prima della settimana di Natale 2016, in cui siamo stati contattati io e il coautore Matteo Olmo Bennati, sì, per appunto andare a documentare con un breve video quella che era la realtà dei lavoratori del canile. Doveva essere un breve video, un minutaggio di 5-6 minuti. Appena siamo arrivati lì ci siamo subito resi conto che lì c'era molto di più da raccontare, perché c'è l'umanità dei lavoratori che sono lì con la passione, come abbiamo detto, più tutti quanti i problemi politici e sociali. Perciò da lì a pochi giorni noi ci siamo ritrovati in realtà su un progetto molto più grande di un semplice cortometraggio. Oltretutto va detto che il terzo giorno di lavorazione, perciò proprio settimana di Natale, mentre noi stiamo documentando soprattutto le attività degli ex lavoratori, iniziano ad arrivare le prime notizie da questa amministrazione. Perciò una situazione che era in stallo da 8 mesi ormai, che gli ex lavoratori, quando noi abbiamo iniziato a filmarli, erano in autogestione, e diciamo lavoratori che sono stati 15 anni, noi ci siamo trovati al terzo giorno a vedere e documentare quel meccanismo amministrativo che si iniziava ad attivare, che li avrebbe poi portati in 2 settimane allo sgombero. Perciò nella pratica la lavorazione nostra è stata dal terzo giorno di buttare via qualunque tipo di idea e di semplicemente documentare il reale. Sì. E credo questa sia una parte molto interessante del lavoro, perché proprio per quanto tutta la situazione tendeva a cambiare ora dopo ora, giorno dopo giorno, ironicamente sotto poi i giorni di Natale, perciò la vigilia, Natale, Santo Stefano, noi non potevamo assolutamente interagire con loro, cioè non c'era un coordinamento, c'era il riprendere il vero. E il 17 gennaio, più o meno dopo 2 settimane, perciò che noi li seguivamo, doveva essere una semplice giornata di riprese in cui noi saremmo andati lì appunto a continuare a fare degli approfondimenti, si è rivelata invece la giornata in cui l'amministrazione ha spedito la polizia per sgomberare i lavoratori, perciò di fatto ponendo fine anche alle riprese. E da lì è iniziato perciò un lavoro di post-produzione fatto in maniera totalmente indipendente, senza un reale scenario produttivo, ma solamente in un discorso di vera e propria solidarietà professionale, in cui ci siamo ritrovati il 17 gennaio con questo materiale che era una testimonianza di un esperimento sociale che credo a Roma abbastanza unico, un'autogestione così lunga supportata finanziariamente dai cittadini con le loro donazioni, e anche la responsabilità di farlo vedere quanto prima. Sì. Perché c'era l'attualità di una giunta comunque comunale da poco eletta, che chiaramente su una storia che probabilmente non era sulle prime pagine delle cronache, però aveva dato dimostrazione di una determinata azione politica. E da lì perciò dal 17 gennaio noi abbiamo iniziato questo processo di post-produzione che ci ha portato poi a poter fare la prima proiezione a marzo del documentario. Sì, sì, sì. Volevo chiederti quanti animali sono, che tu sappia, nella struttura, e quante sono le strutture di questo tipo nella città? Allora, detto che appunto come documentarista sempre più il progetto che io ho seguito, quando noi ci siamo trovati a filmarli i cani erano 700 cani. Mm. Perciò una vera e propria città dei cani, si può dire, un numero grandissimo. Sì, sì. Tanti cani, tra l'altro di un profilo molto complesso, perché c'erano tantissimi cani che erano cani cosiddetti morsicatori, perciò che entrano con alcune esperienze violente di morsi, e il lavoro che appunto poi gli ex lavoratori facevano era quello di ristabilizzare e ristrutturare questi cani affinché potessero andare in adozione quanto prima. Quello della Muratella era il canile più grande, parlo al passato perché non sono aggiornato sui dati attuali, visto che parte del progetto era quello poi di andare a dislocare diversi, appunto, questo numero di cani su altre strutture private. Sì. E questa è una cosa su cui ovviamente gli ex lavoratori si scontravano, perché nel momento in cui una struttura è comunale si può stare più, diciamo, certi di qual è l'obiettivo di quella struttura, nel loro caso appunto permettere una riadozione dei cani. E lì, ma proprio come essere umano io in primis, mi sono trovato a vedere dei casi che vanno ben oltre ogni numero e ogni statistica, perché per esempio ne posso così nominare uno che poi fa parte nel montato del documentario. Questo cane, un Rottweiler, che era entrato violentissimo, a cui era stato dato il nome di Hitler dal padrone precedente, e questo cane ovviamente violento, che ha morso diversi ex lavoratori, ha morso le stesse persone che l'hanno portato nel canile. Loro, gli ex lavoratori, si sono trovati a iniziare questo rapporto di fiducia con questo cane, che hanno poi soprannominato da Hitler Hit per una quieta convivenza. E da lì questo cane, che sarebbe stato un cane altrimenti lasciato in gabbia da una struttura, da una gestione normale, perché un cane complesso è difficile da adottare, in quanto tale rappresenta un minore investimento per chi lavora in canile. Sì. Lì invece c'era al contrario questa gestione, che a mio dire è molto illuminata, perciò l'andare a lavorare su questi cani, l'andare anche con un rischio poi, no, di sicurezza, perché ovviamente sono degli animali con cui si può creare un rapporto di fiducia, ma al minimo errore si rischia un morso che può essere molto grave. E di conseguenza qui c'erano questi casi veramente particolari, che a me, che personalmente non ho mai avuto un cane, io tornavo a casa da queste riprese sconvolto dal proprio livello emozionale che vedevo e dalla passione e l'amore verso il lavoro che gli ex lavoratori dimostravano e poi perciò, diciamo, dimostrano nel documentario. Sì, sì, sì. Senti Claudio, che tipo di fruizione ci sarà del vostro lavoro? Allora, noi finora abbiamo fatto 3 proiezioni qui su Roma, al Cinema Palazzo, ce n'è stata poi una al Nuovo Cinema Aquila e al Crack al Forte Prenestino. Sì. Quello che stiamo facendo adesso è organizzarci per delle proiezioni oltre Roma, in giro per l'Italia, in varie città. Abbiamo ricevuto alcune, diciamo, offerte, disponibilità da spazi, sale, piccoli teatri, perciò anzi questa è una cosa su cui invito chiunque fosse interessato a contattarci tramite la nostra pagina Facebook di Piccolo Mondo Cane, è dove stiamo ricevendo queste richieste e ci stiamo cercando di organizzare per una sorta di distribuzione ovviamente iperindipendente, che possa essere fatta da settembre in poi e che permetta anche a persone fuori da Roma di poter vedere il film. Benissimo. Allora Claudio, io ti ringrazio, un abbraccio, speriamo di risentirci presto per novità. Grazie mille, grazie a te e assolutamente sì. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Claudio Casale, co-regista del documentario Piccolo Mondo Cane. Antonio Libutti, regista del documentario Con gli occhi al muro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Antonio. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Allora, un lavoro che mi incuriosiva molto, intanto raccontiamolo per sommi capi a chi ci sta ascoltando, Antonio. Va bene, sì. Allora, questo documentario, appunto, Con gli occhi al muro, è una ricognizione, un reportage, quindi un'indagine sullo stato della street art in Italia, intendendo stato un modo di essere, insomma, come i vari fatti e fenomeni legati alla cosiddetta street art, e utilizziamo insomma questa definizione in modo onnicomprensivo, no? Sì, tutte sì. Le sue accezioni, come i vari fenomeni siano attualmente presenti e in qualche modo presenti appunto nella società e nella cultura contemporanea, e quindi anche come vengono concepiti, come vengono fruiti. Quindi è un documentario, una lente di ingrandimento su questa galassia creativa che in qualche modo, grazie ai contributi dei protagonisti, dei curatori e anche della cittadinanza, cerca di offrire uno spaccato, no? Sì. Su questo mondo creativo durante un periodo di 2 anni, cioè noi abbiamo lavorato a questo documentario dal 2014 fino al 2016, è stato prodotto nel 2016 e abbiamo appunto collaborato, questo è frutto di una collaborazione, questo documentario, abbiamo collaborato con lo scopo, con l'obiettivo di tirar fuori un lungometraggio che potesse essere esaustivo e comprendere gli episodi, i fatti artistici più importanti di un biennio. Sì, quindi sì. è anche abbastanza collocato geograficamente, questo devo dire, perché comprende il Meeting of Styles a Cesano Boscone nel 2014, passando per l'Emilia Romagna, alcune location che poi sono delle location fondamentali per comprendere appunto lo status della street art in Italia, come la scena di Reggio Emilia o anche Bologna, fino a poi Roma, ovviamente l'esperienza del MAM per esempio, o altre esperienze come Muro e Samba, fino al Sud Italia e al Fame o Fame Festival di Grottaglie, che è uno dei festival storici. Poi insomma ci sono anche delle chicche, se vogliamo, cioè sono delle iniziative uniche che non sono più state ripetute, come la Sagra della Street Art di Vedriano, o anche insomma altre immagini di artisti al lavoro, eccetera eccetera. Allora, considerato che si tratta di un'opera collettiva, come ci dicevi, Antonio, volevo chiederti come è nato e come si è sviluppato il progetto. Sì, allora, questo progetto, io premetto che vengo dal documentario d'arte, ho prodotto primo documentario diretto e prodotto con Giorgio Muscetta, il primo documentario nel 2012. Quindi a me quello che interessava era in qualche modo, oggi siamo in un periodo in cui il documentario è rifiorito, no? Sì. Però il documentario d'arte in Italia langue ancora. Noi abbiamo una tradizione legata al documentario d'arte che passa da Luciano Emmer a Carlo, ai Crito Film di Carlo Ludovico Ragghianti. Poi fra le mie suggestioni ci sono i comizi d'amore di Pasolini piuttosto che il pedinamento di Zavattini o Specchio segreto di Nanni Loi. Cioè abbiamo cercato di mescolare, no? Di fare una commissione di tutte le nostre suggestioni, quindi non solo mie come regista ma anche dei musicisti, perché sì. Io sono un po' maniaco sulle musiche, sull'audio, no? Quindi mi hanno aiutato amici musicisti, da Frank Rimini agli Epson Tapes, ai Nocivi Elementi, DJ De Vasto, a realizzare un contributo audio che in qualche modo amalgamasse la materia visuale, visiva, sì. Ovviamente senza dimenticare i presupposti, no? Della storicizzazione, cioè nella storia sociale dell'arte, praticamente, non voglio scomodare Hauser, ma nella storia sociale dell'arte è importante collocare, riportare l'arte al suo tempo, quindi la difficoltà è stata questa, sì, come collochiamo questa street art nella sua epoca, cioè un'epoca complessa, a tratti complicata, un'epoca di comunicazione iperveloce in cui tocca essere presenti su internet e quindi in qualche modo questo documentario ha cercato di così eviscerare tutte queste tematiche, questi argomenti. Sì, sì. Senti, allora, da un punto di vista internazionale, tu facevi riferimento alla nascita del fenomeno agli anni 70 a New York con i tag, però sì. E poi a livello invece nazionale c'è una lunga tradizione di pittura murale che va da paesi come Diamante in Calabria, Orgosolo in Sardegna, a Mugnano sul Trasimeno. Ecco, insomma, storicamente com'è stata questa ricostruzione? Sì, allora il punto è questo, che negli anni 70, all'inizio del 1971, i graffiti in Italia venivano ancora considerati come scritte politiche sui muri, sì, no? Quindi a New York erano tag, in Italia erano scritte politiche sui muri. Successivamente, quando l'hip hop arriva in ritardo in Italia, quindi anche la scena comincia a cambiare, insomma comincia così ad insediarsi la cultura hip hop con tutta la sua carica, no? Sia dal punto di vista musicale, gli MC, DJ, eccetera, arriva in Italia ma ha una declinazione diversa, perché l'hip hop, il writing in Europa ha una declinazione diversa rispetto agli Stati Uniti d'America. Quindi in Italia questa cultura, il movimento hip hop si interseca con uno strato appunto di pittura murale, un'espressione di pittura murale, i murales, appunto, che hanno un'origine popolare, perché in questi borghi dipinti, che ne sono circa 200 in Italia, questi borghi dipinti in qualche modo hanno cercato di mantenere viva la propria identità e insomma il proprio modo di essere, perché il pericolo è lo spopolamento di questi piccoli borghi. Sì, sì, quindi sì. Se in un piccolo paesino si decide di intervenire con dei murales non solo per decorare, ma in qualche modo anche per dare così una vitalità diversa al posto, no? A proposito di contesti, per dare in qualche modo per far entrare l'arte nel paese, no? E renderla pubblica sui muri del paese, in qualche modo questa tendenza creativa, questa tendenza espressiva è riuscita a richiamare persone, fruitori, quindi appassionati in questi borghi che sono censiti da un sito, Paesi Dipinti, e quindi mi è sembrato utile in qualche modo anche così culturalmente evidente riuscire a collocare l'hip hop in questa nostra tradizione di arte murale che è presente insomma, un po' in tutta la penisola, no? Hai citato appunto Orgosolo in Sardegna, là i primi murales sono stati fatti alla fine degli anni 60, tra il 68 e il 69, quindi immagina. Sì. E continuano tuttora perché ogni anno si aggiungono nuovi pezzi. Sì, ma infatti questa la bellezza è anche questa, che per esempio a Rimini, no? C'è un borgo San Giuliano, che è un borgo legato alla tradizione anarchica dei pescatori, no? E quindi in questo borgo le pitture murali che sono state fatte negli anni 80 continuano ancora oggi e writers, artisti del calibro di Aaron, Noè, Erika e Cane in qualche modo si fanno continuatori di questa tradizione di arte murale. Questo percorso è evidentissimo a Rimini. Sì, sì, sì. Senti Antonio, nel corso degli anni c'è stato un riconoscimento che oggi vediamo chiaramente, perché si è passati dalle prime opere clandestine sempre in fuga dalla polizia a spazi importanti, a committenze istituzionali, alle collaborazioni con le scuole e addirittura a tour organizzati per visitare i vari murales. Sì, guarda, questo dei tour è una tendenza che è europea, perché anche a Lisbona ci sono i tour per visitare, sì, l'arte murale, non solo quella insomma nelle yard, nelle location un po' più periferiche, ma soprattutto quella del centro, no? Quindi sì, nel centro della città, nel Bairro Alto, eccetera, alla Muraria o in altre zone di Lisbona. Effettivamente sì, questa è una questione abbastanza complicata, ma è una questione che secondo me è facilmente risolvibile, nel senso che il writing e il lettering in qualche modo si collocano alla confluenza fra segno iconico e segno alfabetico verbale, quindi esistono, cioè noi li vediamo i flop, vediamo intere murate, vediamo il bombing sui treni, sappiamo che esistono. Il problema qual è? Che non possediamo ancora completamente il codice, ok? Sì. Questa era Caos che lo cantava in un suo famoso pezzo, in una sua famosa canzone. Quindi ci manca il codice. Ecco perché in qualche modo il writing è considerato ancora una materia per addetti ai lavori, no? Per altri graffitari. La cosa è questa, che c'è un passaggio tra avanguardia e avanguardia storica che vale per tutti i fenomeni artistici. Cioè la carica dirompente o anche illegale, eversiva, sovversiva, che hanno avuto certi movimenti come il Dada e il surrealismo, è stata poi acquisita dalla tradizione plastica nel corso del tempo. Quindi c'è stato un passaggio da avanguardia a avanguardia storica. Questo fa parte dei sistemi culturali che tendono ad assimilare, cioè rendere simile a sé, far rientrare in qualche modo nei ranghi le espressioni anche più estreme, no? E quindi questo sta succedendo attualmente anche nel writing. Io direi nel writing, ma è un po' in tutte le espressioni della cosiddetta street art. Sì. Ok, anche sì, quelle diciamo più ribelli, più guerrigliere, come gli attacchi di poster art, no? Sì. In alcuni quartieri o le mostre non autorizzate di poster art, ce n'è stata una qualche anno fa organizzata dai Guerriglia Spam a Milano per opporsi al No Expo, che ha suscitato un grande scalpore, la Shit Art Fair, sempre. Cioè, è rimasta ancora questa carica guerrigliera un po' eversiva, no? Il bombing si fa ancora. Io sono venuto a Roma per varie proiezioni recentemente, ho visto i vagoni della metro bombati, no? Ma non è bombing degli anni 90, cioè bombing fatto 3 mesi fa, ok? Sì, sì. Quindi c'è ancora questa tendenza, no? L'azione su treno e la repressione esiste e secondo me non può essere non si può arginare, perché è così. Sì. Il punto è un altro, cioè per chi guarda, perché osservo un graffito, anche per un appassionato, che valore ha il muro, che il muro sia legale oppure no? Io continuo ad apprezzare la tecnica e lo stile, indipendentemente dalla legalità del muro, capisci? Certo, certo. Il punto di svolta, secondo me, è stato nell'esposizione museale. Uno dei casi più interessanti è successo qualche settimana fa, e c'è tra gli artisti chi ha preferito distruggere le proprie opere piuttosto che vederle esposte in un museo a pagamento. Sì, allora, questo è un altro tema caldo, stai sì. Tirando tutte le patate bollenti. Allora, sì, no, è giusto, perché sono le cose più interessanti, anzi, chiaramente. Anzi, ti dirò che questi stai cogliendo dei temi, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. C'è il concetto di riqualificazione urbana, che certo, vuol dire, certo. No? La street art come foglia di figo per coprire magari altre magagne. Cioè, ci sono tutte queste tematiche. Il punto per quanto riguarda la musealizzazione è anche, ancora una volta, che la street art è stata musealizzata, quindi è un dato di fatto. Cioè, ci sono artisti che sono entrati nei musei come entrano nelle gallerie, no? Sì. Ma io dico una cosa, questi sono artisti che poi scelgano di esprimersi su un muro, che sia legale o meno, o sì. In un festival, o in una galleria, o di regalare i disegni del loro sketchbook, o di abbandonare, perché è stato fatto anche questo, no? Street artist, miei amici che conosco, dipingevano sulle le superfici più assurde, tipo lamiere arrugginite, e poi abbandonavano i pezzi per strada, certo. E quindi avevano organizzato questo gioco al ritrovare il pezzo, un po' come Pokémon Go, no? Ritrovare il pezzo nella città, dove l'ho messo, lo fotografavano. Sì. Cioè, ci sono delle espressioni ancora interessanti, soprattutto di artisti giovanissimi, che vale la pena seguire, magari anche documentare, perché la cosa bella è questo: il mondo, no, della street art è in fermento, perenne, poi soprattutto negli ultimi anni, cioè pensiamo a Roma, no? Si è riempita dei quartieri con murales, no? E, è un mondo in fermento, è in continua evoluzione, quindi sì. Io il finale, dico, gli occhi al muro, dice tutto, cioè un po' come una corsa in yard, no? Non sai se l'artista viene beccato dal vigilante oppure no. Sì. Capito? Ma, rispetto a questi casi limite, mi facevi pensare, per esempio, a dei barboni che si sono fatti custodi in qualche modo delle opere di Banksy, per cui si fanno pagare per chi vuole fare fotografie all'opera. Sì, ma pure c'è il pizzaiolo là che ha messo a Napoli, no, a fianco a Banksy, la vetrina, il plexiglass, cioè, questa comunque è un mondo, sono fenomeni legati a questo mondo. Certo. Okay. Senti, in tutto questo è cambiato anche il rapporto con il territorio, nel senso, per la cosiddetta, tra virgolette, riqualificazione sono stati coinvolti gli abitanti e gli artisti, si è creato questo rapporto tra artisti ed abitanti rispetto ai quartieri, rispetto ai borghi che hanno scelto per portare le loro opere su grosse aree murali. Sì, no, ma guarda, è un rapporto affettivo quello dell'artista con la comunità in cui si trova a operare, ok? Perché in qualche modo l'artista è presente lì per giornate intere, quindi diventa un elemento del quartiere. Sì, di giorno con le impalcature, certo. Sì, è una cosa, cioè è avvenuto a Roma, a Samba con Itnes, per esempio, è avvenuto a Torino con Millo. Sì, va sì, bene, sì. Cioè, e quindi questo rapporto che anche sarebbe anche bello indagare, no? Però noi nel documentario abbiamo fatto una scelta, nel senso che abbiamo scelto di intervistare i protagonisti e di in qualche modo così prelevare le opinioni della gente, delle persone. C'è quel caso di quel signore a Potenza che si arrabbiava perché avevano scarabocchiato il murale di I Love You, no? Indignatissimo. Perché quella è davvero una parte della città, si vede poi, no? In cui è stato fatto di tutto nel corso degli anni, tag su tag, è diventato, cioè ci sono talmente tante tag che i muri sono diventati neri, ok? Quindi perché sì, è una stratificazione di tag che ha reso il muro nero, e quindi ci è sembrato opportuno stare lì a osservare le reazioni più che intervistare, certo, la cittadinanza. Certo, certo. E comunque, e al di là di tutto, il più in generale, l'arte di strada, la pittura murale, ha come caratteristica qualificante la bellezza fruibile collettivamente, nel senso, certo, si creano opere in qualche modo permanenti, anche se deteriorabili, che in qualche modo riqualificano ambienti urbani, per lo più pareti piuttosto brutte, cioè, certo, cioè della bruttura, sì, no, urbana, e vengono messe, insomma, la bellezza viene fruita da tutti. Questo mi sembra il dato più rilevante. Sì, ma perché guarda, il luogo, cioè se pensiamo all'origine, no, della parola graffiti, alla preistoria, no? Qualcuno, sì, definiva i graffiti l'alba dell'umanità, ok? Perché in qualche modo è stato il primo atto dell'uomo sulla sua casa, no? Sul suo habitat, sì, cioè io segno il mio habitat, ok? E quindi è in questa tendenza, secondo me è un istinto che non abbiamo perso, perché nei quartieri, soprattutto quelli brutti, ancora oggi anche la tag fondamentalmente è questo, no? Sì. Qualcuno dice la tag è frutto della sindrome della, scusate il termine, no, della pisciata di cane, cioè io segno il mio territorio, ma non è così, cioè non è soltanto il segnare perché devo imbrattare, no, perché magari io i miei rodimenti, scendo in strada, prendo una bomboletta e faccio un casino, non è questo, è per anche l'abitante in qualche modo si rende conto che il contesto in cui vive, magari già una vita difficile, ok, piena di problemi, il contesto in cui vive è orribile, cioè è esteticamente brutto, quindi perché se arriva un artista o insomma si fa un'iniziativa per dare un po' di colore a questo quartiere brutto mi dovrebbe dispiacere, anzi. A Roma mi è successo a Torpignattara che una signora mi ha tenuto mezz'ora a spiegarmi come l'artista si era arrampicato, aveva là, poi avevano, cioè, capito? La bellezza è anche questa, poi magari nel bar, no, fra il cornetto e il cappuccino interviene il barista, oh ma sai quello poi è venuto qua, capito? Cioè, è l'osservazione del, sì, fenomeno, del fatto è questa, insomma, sì, è riuscire a rilevare tutti questi aspetti. Senti Antonio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora questo è un documentario che ha un presupposto fondamentale, quello di rimanere indipendente e autonomo, sì. Noi abbiamo deciso di prescindere dalle dinamiche, no, solite di produzione e distribuzione, siamo presenti online sul sito www.cogliocchialmuro.com, quindi questo documentario online è suddiviso in 5 frammenti che possono essere visti su qualsiasi supporto, su qualsiasi, dal tablet al telefonino, su qualsiasi supporto, al proiettore eccetera, e siamo presenti sui canali, su canali social, quindi Facebook, YouTube, le nostre programmazioni, cioè le nostre proiezioni sono in qualche modo aggiornate su Facebook soprattutto, e perché stiamo circolando soprattutto nei festival di street art. Questa è l'anomalia di quegli occhi al muro, cioè, i festival di cinema non ci si calcolano, i festival di street art ci diamo quasi sempre, no? Invece non è così, cioè siamo stati anche al Cinema Aquila con una proiezione e ci stanno chiamando anche dall'estero in realtà, perché dovremmo finire l'appendice europea, speriamo presto. Bene, bene. Allora Antonio, magari ci sentiamo per le prossime novità. Va bene, io ti ringrazio tanto, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio i registi che mi hanno preceduto e quelli che verranno alla trasmissione Visionari, e un saluto a Radio Onda Rossa a cui sono particolarmente affezionato. Ah, che bello. A presto, ciao Antonio. Ciao. Antonio Libutti, regista del documentario Con gli occhi al muro. Beh, Bene, questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Oggi andremo anche un po' oltre perché non c'è tracce di cinema in pausa estiva. In diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo ora in collegamento con Lorenzo Fantini di Wanted Cinema sul documentario China's Van Gogh di Haibo Yu, non so se la pronuncia sia questa, comunque sarà in programmazione al Festival Trastevere Rione del Cinema qui a Roma, a Piazza San Cosimato, il prossimo 18 luglio. Lorenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti, buona giornata e buona serata. Allora, come dicevo, anche la pronuncia è impeccabile. Ah, che bello. La pronuncia è impeccabile, ottimo, anch'io mi sono esercitato a lungo, ma ho potuto appurare che siamo sulla strada giusta, benissimo. Per questo film che sarà presentato il 18 luglio, giusto? Esattamente. Alla rassegna Visionari. Bene, no, film... non è la rassegna Visionari. No, attenzione, ho sbagliato, perdonami. Cioè, Visionari è questa trasmissione. Il pubblico. Sì. Ok, senti, tra l'altro, come dicevo poc'anzi, tutti i mercoledì sono dedicati al documentario e in questo caso addirittura un documentario internazionale. Non saranno presenti gli autori, insomma, lo presentiamo noi oggi per capire meglio di cosa si tratta. Allora, ce lo racconti in breve, Lorenzo? Sì, il film il China's Van Gogh, quindi i Van Gogh cinesi, nasce da una domanda, da una curiosità che si voleva levare il regista, appunto. Questa marea di riproduzioni delle famosissime tele di Van Gogh che molti di noi hanno visto magari in vendita fuori dal Van Gogh Museum di Amsterdam oppure in tutti i negozi che vendono poster, cataloghi d'arte eccetera eccetera, da dove arrivano? Non sono fotografie dei quadri del grande olandese, bensì sono tutte riprodotte a mano con una perizia incredibile in un quartiere di una metropoli cinese di Shenzhen, un enorme quartiere che poi di fatto è una città, dove un esercito di ex contadini riciclatisi in pittori da grandissima perizia passa dalle giornate a ricopiare a mano, a olio, su tele i quadri di Van Gogh che poi vengono spediti in tutto il mondo. Il film in particolar modo si concentra sulla storia di un maestro di bottega, anche lui un ex contadino, però con un grandissimo talento per la pittura. Poi se in Cina comunque la pittura e il disegno è sempre stata una pratica molto diffusa, la gente comunque va nei parchi a disegnare, andava perlomeno nei parchi a disegnare, insomma c'è un grande talento naturale. Ecco, il film segue il protagonista, questo maestro di bottega che ha le sue dipendenze, una ventina di ragazzi che disegnano da mattina a sera Van Gogh, perché il suo principale cliente, che ovviamente è un olandese che poi acquista i suoi quadri per poi rivenderli in Olanda, tutto intorno al museo di Van Gogh, pure nella città natale di Van Gogh, lo invita finalmente ad andare a vedere dal vivo ad Amsterdam i quadri di Van Gogh, la sua ossessione. Quindi da una parte prima vediamo il travaglio di quest'uomo che non sa se lasciare o meno questa fabbrica, la moglie che lo vuole trattenere, i suoi dipendenti che lo incitano ad andare, lui chiaramente è curiosissimo, anche la prima volta che poi sarebbe andato in Europa da parte sua. Dopo il travaglio parte e va finalmente ad Amsterdam a vedere dal vivo il padre del maestro, dove poi succederanno delle cose, ecco. In realtà appunto questo film, al di là del racconto appunto di questa realtà a molti sconosciuta, a me per primo, ed è anche, fa molta veramente impressione vedere praticamente fabbriche di quadri. Noi siamo abituati ormai purtroppo a vedere queste immagini di opifici cinesi dove ci sono questi operai come ai tempi di Dickens che stanno lavorando chini su microchip piuttosto che non su palloni da calcio, e lì sono tutti a disegnare i quadri di Van Gogh. Benissimo, però in realtà questo film ci permette comunque di avere un bello sguardo dall'interno sulla Cina contemporanea, certo. Perché comunque girato appunto da un cinese, è un buco della serratura in un qualche modo, per cui attraverso anche solo un piccolo particolare, una piccola realtà che comunque visivamente è bellissima, perché comunque abbiamo a che fare con queste immagini stupende, le originali e le copie di Van Gogh che sono belle quanto le originali, però è un modo per capire dove sta andando questo incredibile paese, come anche sta perdendo la propria identità e come stiano perdendo chiaramente tutti i lavoratori cinesi poi di fatto. Quindi è un film sicuramente molto bello, che si può vedere su più piani, ecco. Sì. L'aspetto artistico, l'aspetto sociale, l'aspetto di avventura, ecco. E quindi sicuramente un film che ha proprio veramente per tutti, ecco, anche perché Van Gogh è veramente il mito di tutti, no, credo, sì. Più o meno, cioè se non ci esiste nessuno che onestamente non ami Van Gogh, lo butto lì, magari sbaglio, però comunque no. Insomma, sì, e quindi questo è, diciamo. Senti Lorenzo, immagino che la differenza tra una copia dipinta a mano e una stampa sia proprio nel prezzo certo, dell'opera, certo. E dall'altro immagino ulteriormente una grossa differenza tra quanto viene venduta dalla committenza e quanto vengono pagati i disegnatori, i pittori. Ah beh, naturalmente, come in tutti i casi dalla Apple a scendere, il divario che c'è tra i costi della manodopera e poi anche del prodotto finito in Cina e il prezzo cui viene rivenduto poi al pubblico è incredibile, è altissimo il divario, certo. E quindi sicuramente anche questi pittori operai sono sicuramente super sfruttati, ecco. Poi inutile dire in che condizioni di lavoro vivono, perché comunque questi grandi stanzoni disadori dove loro copiano da tipo dal computer, no? C'hanno dei vecchi computer in cui mettono il fermo immagine, però anche tra le esalazioni di questi colori ad olio che comunque no, saranno ovviamente abbastanza tossici, fumando, bevendo, quindi insomma, e vengono pagati chiaramente pochissimo, mentre sì, invece sì. Quando poi li compriamo qua hanno un certo tipo di prezzo, ecco. Sì, sì, è un altro caso, diciamo, di sfruttamento in Cina, questo non c'è dubbio. Sì. O che viene raccontato bene proprio senza, sì, sì, sì, sì. Senza nessun tipo di, ecco, di ombra. Senti Lorenzo, Wanted Cinema, come ha incontrato questo documentario e poi come lo state distribuendo? Ma allora, Wanted Cinema ha incontrato questo documentario neanche a farla apposta, proprio ad Amsterdam, perché ad Amsterdam ogni anno a novembre c'è l'IDFA, International Documentary Film Festival Amsterdam, che è il più importante festival di documentari, si può dire, del mondo praticamente. Sì, sì. E noi, in quanto Wanted Cinema, in quanto appunto casa di distribuzione, come tutti i distributori, si va al festival, in festival importanti, e Amsterdam per i documentari appunto lo è, si vedono tantissimi film, e quando se ne trova qualcuno che si reputa possa anche essere interessante, utile, quindi possa funzionare da un certo punto di vista anche in Italia, allora si avviano, vabbè, chiaramente i contatti con la casa di produzione, e una volta che poi si trova anche un accordo economico, poi si procede chiaramente alla edizione. E adesso questo film in particolar modo verrà appunto distribuito in Italia in autunno. Però non sappiamo ancora precisamente quando, anche perché adesso ci stiamo concentrando al 12 settembre su un film molto importante dedicato alla mindfulness, che è la giornata nazionale della mindfulness, con al monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, quindi è un film su cui siamo, però faremo circolare questo film sicuramente, anzi invito tutti, anche gli ascoltatori, a contattarci volendo, perché poi come distribuzione noi, al di là di proporre i film nei festival e nei cinema, d'essè oppure no, però organizziamo anche proiezioni dedicate, no? Per esempio in questo caso Childish Gambino, faccio un esempio, se un liceo artistico piuttosto che non degli appassionati d'arte volesse organizzare, no, noi, come dire, sono proiezioni on demand in un certo senso, ecco, facciamo anche questo. Benissimo. Ecco, sì. Allora, i riferimenti chiaramente ci sono anche sui social, per Wanted Cinema. Wanted Cinema, esatto, oppure sui social, sì, su Facebook Wanted Cinema, quindi. Perfetto. Certo, certo. Lorenzo, io ti ringrazio, un abbraccio, speriamo a presto. Grazie, ringrazio io voi e spero che vada tutto bene per questa rassegna il 18 luglio, giusto? Cioè, esatto. No, speriamo, magari, chissà, non escludo di poterci essere. Grazie tantissimo per l'invito. Un abbraccio, a presto, ciao. A presto, ciao, ciao. Ecco, questo era Lorenzo Fantini di Wanted Cinema sul documentario China's Van Gogh di Haibo Yu al Festival Trastevere Rione del Cinema qui a Roma, Piazza San Cosimato, il prossimo 18 luglio, che è martedì. Ed è tutto per Visionari di questa settimana. Come dicevo prima, Tracce di Cinema è in pausa estiva, quindi non andrà in onda, vi lascio in compagnia dell'Automatico. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.